Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 0024. Domani ci intratterremo sulle putain della République, ma oggi no, oggi parliamo di una questione di rango, di statura e di importanza planetaria, il destino di questo grande paese islamico, l'Iran, che è in preda a una forte turbolenza. C'è divisione nel giudizio su quello che sta succedendo a Teheran. C'è chi pensa che si tratti di una guerra interna al regime, una guerra tra le élite, e come ha detto per esempio il capo del Mossad, il servizio segreto israeliano, le manifestazioni sono destinate ad afflosciarsi e il richiamo, diciamo, una volta che si siano determinati nuovi equilibri interni, il richiamo all'ordine trionferà. C'è invece chi pensa che sia in atto, al di là del fatto che effettivamente alcuni notabili si battono contro altri notabili, insomma la questione dei brogli, l'attacco e la denuncia da parte dell'ex primo ministro Mousavi contro l'attuale presidente e suo rivale nelle elezioni Ahmadinejad, c'è chi pensa che tutto questo invece abbia innescato una meccanica della rivoluzione, cioè quello è un paese disperato per certi aspetti e invece molto allegro e molto carico di senso del futuro per altri, è un paese di giovani, è un paese dove le donne tessono, diciamo, le fila di una silenziosa rivolta, è un paese con testimonianze, scrittori, è un grande paese colto, orgoglioso, fiero di sé e insomma stare così sotto il dominio, diciamo, delle toghe dei mullah è una cosa, insomma, che non sembrerebbe che non ne abbiano più voglia, francamente. A testimonianza leggo da Repubblica le belle parole che ha scritto un blogger. Perché? Perché i blogger, gli utilizzatori di Facebook e di Twitter sono nel mirino, la polizia di Ahmadinejad e altre squadracce abbattono le paraboliche, effettivamente uno degli strumenti, diciamo, della meccanica rivoluzionaria è questa capacità di connettersi in rete e quindi di usare quello che una volta era il passaparola. Sono andato, il nome di questo blogger non si conosce per ragioni di sicurezza, sono andato a Piazza Vanak, la folla si addensava fino a diventare un immenso ingorgo umano. Wali Asr era gremita di dimostratori, marciavano dal nord al sud, mai visto un raduno tanto civile. I poliziotti sorvegliavano attorno alla piazza, qua e là gruppetti di persone conversavano tra loro. Due giovani leve della polizia erano lì in piedi a guardare. Un'anziana li ha interpellati: sareste pronti ad arrestarmi? Uno dei due le ha risposto: no, certo che no, non ne avremo mai il cuore, non vedi che noi e voi siamo gli stessi? Ecco, queste sono le illusioni e insieme anche le speranze tipiche di una piazza rivoluzionaria, il rapporto con gli uomini dello Stato che dovrebbero passare dalla tua parte o quantomeno impedire che tu venga represso nel sangue. Il soldato, annota il blogger, avrà avuto 20 anni. Molti iraniani che ascolto sono concordi. È iniziata una nuova era. Ho visto 3 ragazzine adolescenti, snelle e piccoline, forse troppo giovani per trovarsi lì. Facevano anche loro il segno della vittoria al passaggio dei dimostranti. Malraux, il riferimento è al grande scrittore e uomo politico francese André Malraux, avrebbe certo scritto un lungo testo su tutto questo. Eppure io ero muto, senza parole, davanti a me ieri passavano uomini e donne immortali. Bene, i nostri ospiti sono Farihan Sabahi, giornalista e docente di filologia, religioni e storia dell'Iran alla Facoltà di Studi Orientali dell'Università La Sapienza di Roma, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, Daniele Raineri del Foglio e Carlo Panella, giornalista che ha scritto la sua ultima fatica si intitola Non è lo stesso Dio, non è lo stesso uomo, Bibbia e Corano a confronto, edito e pubblicato da poco da Cantagalli, un editore benemerito di Siena. Bene, Farihan, chi ha ragione? Quelli che dicono che la folla è, rappresenta l'anima del paese e una richiesta di libertà e di democrazia pura, oppure quelli che dicono che la folla può rappresentare quello che vuole, ma in realtà è usata e verrà richiamata a casa al momento opportuno da una parte delle classi dirigenti che ha a sua volta gravi responsabilità per la condizione in cui versa il concetto stesso di libertà in un paese come l'Iran, contro l'attuale presidente Ahmadinejad? Ma io ho l'impressione che queste dimostrazioni di piazza non siano qualcosa di preparato a monte da Rafsanjani piuttosto che dall'ex presidente Khatami o ancora dallo stesso Mousavi. Penso che sia un movimento sincero degli iraniani che hanno desiderio di sognare, desiderio di immaginare un mondo migliore, un Iran migliore senza la polizia religiosa che pattuglia le strade, senza inflazione e disoccupazione a due cifre. È vero anche che Ahmadinejad è stato votato, nonostante i brogli evidenti, è stato votato da una parte della popolazione, perché comunque ha fatto campagna elettorale per 3 anni e mezzo e si è acquisito con questo il consenso di una parte dell'elettorato. Pensiamo al fatto che si è sporcato le scarpe andando nei villaggi dove il clero, pensiamo all'ex presidente riformatore Khatami, non è andato mai a sporcarsi il fondo dell'abito talare, ha dato l'assistenza medica gratuita 22 milioni di iraniani, ha dato un aumento di stipendio agli insegnanti del 30%, insegnanti che avevano battuto cassa a Khatami e non avevano avuto nessun risultato concreto, ha aumentato le pensioni del 50% permettendo agli anziani di arrivare a fine mese e ai contadini che hanno sofferto per la siccità ha dato un bonus in denaro. Alle famiglie senza reddito il governo si è impegnato a pagare le bollette, quindi tutto questo sicuramente è servito a qualcosa. C'è anche da dire che però l'Iran è un paese più complesso di quanto sembri, è un paese, lei lo ha definito un paese islamico, in realtà c'è una fortissima anima persiana, c'è una quartina di Omar Khayyam, perché la poesia è tanto cara agli iraniani, che recita: noi persiani teniamo una mano sul Corano e l'altra sulla coppa, la coppa di vino, che non siamo del tutto musulmani né del tutto miscredenti. Quindi quello che sta succedendo oggi va letto non tanto in chiave islamica ma proprio in chiave sciita. Anche le manifestazioni che si avranno oggi sono tipiche del mondo sciita e questa protesta è una protesta prevalentemente sciita. La mia domanda ulteriore è questa, Farian: c'è sottomissione in senso spirituale, religioso, al clero islamico, o il clero islamico è una, diciamo, è una classe dirigente, per quanto naturalmente nutrita di spiritualità e teologia, i saggi di Qom, però è una classe dirigente come un'altra, insomma è la teocrazia di un gruppo di preti, o c'è una profonda, una radice, diciamo, della loro predicazione, del loro modo di essere, del loro modo di immaginare la rivoluzione islamica nelle anime del popolo iraniano? I giovani ci credono o non ci credono? Ma io ho l'impressione che il popolo iraniano sia profondamente tradizionale, quindi anche questa idea che i giovani vogliano solo sesso, droga e rock and roll secondo me non è veritiera. Cioè a me è capitato in città fuori da Teheran, per esempio a Shiraz, che un ragazzo mi facesse osservazione perché ero vestita da Teherani, cioè da donna di Teheran alta, quindi con lo spolverino attillato e il foulard leggero e non invece con il chador rigoroso che si usa per esempio nelle altre città. Quello sicuramente è una cosa su cui bisogna riflettere. L'altra cosa è che purtroppo, perché le cose funzionavano meglio quando erano i mullah veramente al potere, oggi non è una mullacrazia, non è più un governo dei preti, perché in politica ormai si sono insinuati in modo prepotente i pasdaran, quello è il vero problema dell'Iran oggi. C'è una lotta di potere e i disordini di questi giorni, i brogli elettorali, sono proprio il segno di questa frattura interna, perché è vero che Khamenei è il leader supremo, ma è un uomo molto debole in una posizione importante. Perché è un uomo debole? Perché lo chiamiamo Ayatollah, ma in realtà si è praticamente autopromosso nel 1989 guida suprema, ma in realtà non ha fatto gli studi teologici per essere chiamato Ayatollah e quindi non gode della stima né degli altri Ayatollah in Iran né degli altri Ayatollah nel mondo sciita generico. Il problema è proprio quello dei pasdaran, che sono entrati in politica, sono entrati nel mondo militare e anche ormai controllano le leve dell'economia. Quindi l'alleanza tradizionale che c'era tra il clero sciita da una parte e dall'altra i basari, cioè i mercanti del bazar che hanno finanziato per esempio la rivoluzione 79, questa alleanza si è incrinata a causa dei pasdaran. E il momento evidente che abbiamo visto in queste settimane è quando Ahmadinejad ha avuto il coraggio di infrangere un tabù, e cioè in un dibattito televisivo contro il candidato moderato Karrubi ha parlato male, l'ha accusato di corruzione, ha detto: tu sei un corrotto, tu e i tuoi figli, come Nate Gnouri, l'altro uomo conservatore legato a Khamenei, ha detto: anche tu e i tuoi figli siete dei corrotti, avete investimenti immobiliari in Canada e via di questo passo, e ha accusato tanti altri. Se è vero quello che lei ha detto, e non ho ragione di dubitarne, sulle misure sociali varate da Ahmadinejad, sulla sua faccia tosta, sono dati, disinvoltura televisiva, no, dico, e così, insomma, sul clima che si respira nel paese, Sì, avrà fatto dei brogli, ma forse la maggioranza dei voti l'ha presa. Sì, i brogli li ha fatti sicuramente, perché altrimenti non avremmo avuto risultati nel giro di pochissime ore. Quindi l'errore secondo me era stato quello. Forse si poteva aspettare, andare a vedere al ballottaggio cosa succedeva. C'è anche il desiderio però in una parte della popolazione iraniana. Hanno voluto tagliar corto, sì. Sì, secondo me c'è anche però un desiderio fortissimo di cambiamento proprio in Iran. Ora c'è un ayatollah che ha 87 anni, che si chiama Montazeri e che è stato anche incarcerato per avere lottato contro l'attuale guida suprema della rivoluzione islamica. È un bel personaggio. Sì, e che è circondato invece da un grandissimo prestigio segreto, diciamo. Però è marginalizzato, insomma, è nella riserva di studi teologici, non agisce politicamente perché è stato sconfitto, appunto, è stato tolto da un carcere solo per paura che morisse in carcere. È credibile, Panella, che Montazeri svolga un ruolo nel futuro dell'Iran, cioè insomma, grandi vecchi che parlano a questo paese, lo convincono, lo seducono, ne diventano la guida, ce ne sono stati. È assolutamente credibile, se non sarà isolato, come è stato fino adesso. Fino adesso, quando fu incarcerato, lui era stato addirittura designato come successore di Khomeini, ma poi appunto perse completamente la sua battaglia. E per andare per le spicce, insomma, guardate che qui il problema, siccome ha assolutamente ragione Flavian, il problema è di vedere come questo movimento reagirà alla repressione, che non sarà una repressione fatta da quel giovane poliziotto e neanche dai soldati, ma che sarà fatta da quelle che io chiamo le squadracce del welfare, cioè da questi bassisi, questi personaggi, abbiamo visto qualche fotografia, no? Le squadracce con le motociclette, Kawasaki, eccetera, che vanno in giro a bastonare i manifestanti, che sono dei giovani che vengono molto spesso da fuori Teheran, oppure dalla cinta di Teheran. Quella di Teheran è come se avesse la Vandea di Parigi, però dentro la città, che la circonda completamente, che sono i figli di tutti quegli strati sociali che beneficano dal welfare islamico, da parte delle fondazioni, un reddito dal petrolio che viene distribuito al popolo, e che sono molto motivati ideologicamente, che non stanno a fare le squadracce per soldi, hanno sicuramente la loro convenienza, ma che sono molto motivati ideologicamente. Vedo che Mousavi, è una notizia dell'ultima ora, parteciperà alla manifestazione di lutto per i 7 morti delle proteste di lunedì scorso e invita attraverso il sito web i concittadini ad indossare abiti neri con cinta verde, a recarsi in moschea e a marciare pacificamente. Quindi questo movimento di massa dirompente dovrebbe continuare ancora alcuni giorni, anche perché c'è fino a quando non sarà bastonata. Allora lì bisogna vedere quando ci sarà la repressione dura, se il blocco religioso seguirà Montazeri oppure rimarrà come è sempre stato in fondo complice con il regime. Bene, Caracciolo, l'Occidente cosa fa nel frattempo? Perché Obama è l'uomo delle grandi speranze, si è presentato e ha funzionato come appunto un uomo che vuole costruire un futuro e dare a tutti un'occasione per costruirsi un futuro. È imbarazzato da quello che sta succedendo, obiettivamente, adesso, senza volere neanche infierire troppo, ma insomma mi pare che penso che non sia, diciamo, lo scenario ottimale a cui lui puntava. Uno dei paradossi di questa vicenda è che nel momento in cui il presidente americano dice che bisogna negoziare con questo regime, quel regime va in crisi. Ed è anche da notare, io credo, che questa elezione non era solamente per il presidente dell'Iran, era l'elezione di chi negozia con gli Stati Uniti. E quindi, a mio avviso, uno degli elementi centrali di questi brogli è creare un ticket forte, Khamenei Ahmadinejad, abilitato a trattare da posizioni dure di forza con gli americani. Dico a trattare perché sono convinto che alla fine tutti quanti, o quasi tutti, nel regime iraniano vogliono una vera trattativa con gli americani, ma la vogliono a partire dai loro punti di forza. Obama, come abbiamo visto, tiene un profilo molto basso. Per esempio Sarkozy sembra aver preso la leadership di un atteggiamento occidentale più critico verso il potere a Teheran, più accogliente verso le ragioni della protesta del popolo. Beh, intanto lì c'è forse anche un elemento personale, cioè Sarkozy ha anche una nervosità diversa da quella di Obama. Obama reagisce sempre in maniera quasi malarica alle situazioni, mentre Sarkozy reagisce sempre in maniera effervescente. Lui spera in una sorta di rivoluzione colorata in Iran, che forse accadrà, ma per il momento mi pare ancora piuttosto lontana. Che cosa può succedere adesso? Io credo che gli americani manterranno il basso profilo, anche perché se si schierassero con qualcuno sarebbe suicida dal punto di vista loro, e sarebbe anche la fine del movimento, perché verrebbe accusato di essere una quinta colonna americana. Quindi penso che gli americani terranno questo basso profilo fino a che o la cosa rientra oppure la cosa diventa effettivamente una rivoluzione, e a quel punto cambierà un po' tutto. Reineri, qual è la sua opinione su questo scontro di classi dirigenti, sul quale però diciamo che è sopravanzato da un fenomeno rivoluzionario di piazza? Beh, c'è evidentemente una convergenza di interessi fra la vecchia guardia comeinista, rappresentata da Rafsanjani, da Hatami e da Mousavi, e gli interessi dei giovani che vogliono, non sono per l'una o per l'altra parte. A me sembra che siano più anti-isolazionisti, vogliono rompere l'accerchiamento diplomatico ed economico che cinge l'Iran. Prima quei dati su Ahmadinejad, che raccontavano le grandi largizioni dei proventi del petrolio al popolo, che hanno portato Ahmadinejad al suo mezzo trionfo elettorale. Beh, bisogna ricordare anche che, come dice Montazeri, il prezzo delle case è aumentato del 50% negli ultimi 3 anni, quindi l'inflazione si sta mangiando queste nuove largizioni populiste. Insomma, c'è anche un interesse da parte della classe dei giovani a cambiare lo status quo, a sfidarlo, a smuovere il sedimento limaccioso che copre tutto. C'è chi dice che non solo Sarkozy, ma anche l'Unione Europea potrebbe giocare un ruolo. Cioè, qui c'è il problema, è giusto quello che diceva Caracciolo, non è che si può abbracciare le ragioni della piazza, i governi non fanno questo, non interferiscono in questo modo così plateale. Però insomma, possono porre problemi e condizioni. D'altra parte l'Iran è colpito già da sanzioni, insomma, non dico uno stato canaglia, lo si diceva ai tempi di Bush, ma insomma è uno stato controverso, ha una guida politica controversa. Che può fare l'Unione Europea, secondo lei? Beh, diciamo che tutto quello che si può fare va fatto prima, perché si possono fare le sanzioni che innescano quel malcontento, quel malumore che poi porta alla sfida al regime. In questo momento, con le proteste in corso, è meglio mettersi da parte e stare a guardare, perché già fioccano le accuse ai manifestanti di essere una quinta colonna animata da agitatori sionisti. C'è sempre il grande complotto in Iran, c'è sempre il grande complotto che viene dall'esterno. Togli la barba degli ayatollah e vedrai scritto Made in Britain, dicono gli iraniani addirittura, quindi se la prendono anche con la loro stessa classe religiosa. Quindi forse adesso è troppo tardi per intervenire e porre condizioni dall'esterno. Prima con le sanzioni. E ci sarà un rapido riflusso delle manifestazioni, oppure adesso di funerale in funerale, di cerimonia in cerimonia, di manifestazione in manifestazione, si andrà ad una spirale manifestazione-repressione? Beh, il problema è che secondo i costumi islamici, secondo i costumi iraniani, a ogni morto corrisponde un funerale che si trasforma in una nuova manifestazione, e 40 giorni dopo c'è un'altra cerimonia, un altro memoriale che si trasforma in un'altra occasione di manifestazioni e proteste, durante le quali è possibile che ci scappi un altro morto, e allora si cresce in modo esponenziale di manifestazione, può sfuggire di mano. Interesse composto della repressione, così. Sì. Vabbè. Barrito. Dunque, allora 800 24 00 24, Mauro da Genova, molto scettico e molto sulla scorta di Cacciari, mi dice la scheda. Mauro, che sento il rumore del mare di Genova. Pronto? Mauro, forza, parla. Sì. Ah no, parla. Niente, io avevo un attimo da fare una riflessione. Ho sentito Cacciari anche parlare di questo argomento, mi ha fatto piacere. Cioè, la pressione dell'Occidente affinché tutti diventano democratici, tutti i popoli del mondo. Pressione che non c'è attualmente. Beh, attraverso internet, la comunicazione, YouTube, è un'arma da guerra anche quella. Ah, vabbè, in quel senso lì, sì, le società occidentali gradirebbero che ci fosse la libertà dappertutto, sì. Allora, lei che dice di questa pressione? Io dico, non c'è finalità. Anche se tutto il mondo diventasse un'unica democrazia, non ti fa intravedere nessun fine, nessun scopo. Mettiamo che siamo già quel giorno. Il progetto qual è? Perché insomma, le nostre democrazie l'uomo non libero, è che siano... L'uomo libero, l'uomo autocosciente, autoconsapevole, che può fare quello che vuole, tributare il suo culto a un dio, oppure, non so, andare sulla luna. L'uomo libero. La libertà è qua di scegliere il colore del telefonino. Capisce cosa voglio dire? Beh, anche questa è l'unica vera libertà che leggere, scrivere libri, fare ricerche nelle università. Non essere impiccato se sei omosessuale, ad esempio. Ma non è vero, queste qua sono bugie. Ma vengono impiccati gli omosessuali, sono condannati a morte, c'è la pena di morte per omosessualità in Iran. Ma in Iran pensavo qua, no. No, qua ancora non ci siamo, no. Qui è un bordello, ma non... Qui è il contrario. Ma sì, Mauro, mi sembra un po' cupa la sua visione. Capisco? No, non è cupa. Le legge Cacciari, quindi la comprendo, diciamo, ma è un po' cupa. Io credo, questo è il mio pensiero. No, scusi Mauro, perché posso capire, sentiamo anche i nostri ospiti, posso capire dire, vabbè, una strategia di espansione della libertà e della democrazia con la forza, come è avvenuto in Iraq, come è avvenuto in Afghanistan, è contraddittoria, difficile, ci espone la guerra, insomma ci sono molti problemi naturalmente. Però il fatto che nel mondo coloro che godono della libertà si preoccupino anche di quella degli altri attraverso la rete, diciamo, di comunicazione e di informazione, così, quello non mi sembra censurabile, no? No, lei dice non manca un fine. L'altro ha un altro tempo storico, antropologico, non è che dall'oggi al domani l'altro diventa come noi e noi dobbiamo deridere l'altro perché rispetto a noi è 500 anni indietro e in 6 mesi deve diventare come noi. Ma i diritti umani sono universali, abbia pazienza. Gli iraniani che stanno scendendo in piazza hanno gli stessi diritti che hanno gli italiani qua. E visto che facciamo tantissime conferenze... I diritti umani sono universali, ma l'etica relativista non è universale. No, quello no, però... Ahimè. Spero però... che lei apprezzi Ratzinger. Ma io... noi abbiamo un buon ayatollah contro il relativismo. Diciamo, sì, quello vaticano. Sicuramente. Io credo che non esista. I diritti umani, se l'etica è relativista, vedi, Mauro da Genova dice: ma lasciamoli lì 5 secoli ancora a bersi. Facciamo una conferenza in meno, una manifestazione in più, magari. Va bene, grazie Mauro. Comunque non deridiamo nessuno e ascoltiamo tutte le obiezioni, anche quelle molto molto scettiche come le sue, con il dovuto rispetto. Giampiero da Firenze. Pronto? Sì, eccoci. Buongiorno, dottor Ferrara. Buongiorno. Lei ricorda, ho avuto sentore dell'operazione Ajax del 23 giugno del 1953 che portò alla fine del governo del leader nazionalista Mossadegh. Sì, quell'operazione venne al culmine di malcontenti diffusi nella società iraniana che furono senza dubbio istigati dalla CIA. Dico, sì. Naturalmente sono tre cose molto diverse. Ma non potreste trattarsi della stessa meccanica, perlomeno nel modo di far scoccare la turbolenza? Cioè, è chiaro che questa operazione è stata... Io ho pubblicato un articolo della conservatrice americana Ann Coulter che si gloriava dell'azione contro Mossadegh della CIA nel 1953 e la lodava molto dicendo che è l'ultima azione significativa fatta dalla CIA prima che diventassero dei burocrati e dei passacarte, un parere ovviamente molto diverso dal suo. Ma non so, Giampiero, forse Caracciolo ci può dire se secondo lui... Insomma, gli americani hanno una doppia politica, una politica a doppio fondo, quella della Casa Bianca. Certamente Obama no. Cioè, è chiaro che con l'amministrazione precedente sono state installate, diciamo, e foraggiate alcune antenne sul luogo, più da parte israeliana e britannica che da parte americana, forse. Il precedente Mossadegh è comunque importante ed è una delle ragioni fondamentali per cui gli americani non possono essere troppo, diciamo, di alto profilo in questa vicenda, perché la memoria di quel colpo è ancora molto forte, io credo, in Iran. La memoria del colpo del 53. Quando Ahmadinejad ha aperto il suo blog, nel primo post ha ricordato proprio il colpo di stato del 53 contro Mossadegh. Mi sembra che gli unici stranieri che stanno interferendo, diciamo, in questi momenti sono i libanesi e gli iracheni di Hezbollah, delle milizie finanziate dal regime iraniano, richiamati, diciamo, in Iran per aggiungersi ai cani da guardia di Ahmadinejad. Sono, diciamo, manovalanza operosa per reprimere le manifestazioni. Ecco, questa è una voce che ho sentito anch'io in Iran per telefono. Panella, il rapporto dell'Iran con il suo passato storico, diciamo, con la fase, come possiamo dire, della decolonizzazione, della desottomissione all'imperialismo, insomma, come si struttura? Si struttura con il fatto che in realtà la rivoluzione del 78-79 è stata una rivoluzione contro la modernità, in un certo senso. No, l'Iran era il paese in cui più l'Occidente aveva investito in cultura, non soltanto in beni di consumo. Era Teheran, sembrava di stare in un quartiere di San Francisco, nel centro di Teheran, ma in cultura. C'erano centinaia di migliaia di giovani iraniani che c'erano specializzati e laureati nelle università di tutto il mondo. Cioè, come sempre succede, i regimi autoritari poi riescono a modernizzare. La polizia picchia però, duro. Però quella modernizzazione fu rifiutata, perché il regime era un regime insopportabile, autoritario, e soprattutto un regime cretino, diciamo, incapace di fare riforme, rigido, incapace di sentire il polso del popolo e di dare qualche cosa, insomma non dava assolutamente nulla, fu rifiutata e ci fu questo movimento popolare in cui tutti i partiti, non soltanto tutto il popolo iraniano, ma tutti i partiti iraniani erano partecipi, tutti, perfino i comunisti andavano dietro a Khomeini. E poi, fatta la rivoluzione, ha vinto la Vandea, ha vinto una Vandea sciita, ha vinto un Islam pagano, un Islam che è rifiutato anche dalle grandi centrali della Shia. Insomma, l'Ayatollah al-Sistani di Najaf non è mai stato d'accordo su quanto è stato fatto nella Repubblica Islamica iraniana, e tutta la parte moderna dell'Iran è stata sistemata un pochino mandandola sulle forche e poi mandandone 2 milioni all'estero. Ecco, la cosa straordinaria, c'è un articolo molto informato di Giulio Meotti sul Foglio: Mousavi ha un lato sinistro segnato da morte e fanatismo. Insomma, Rafsanjani ha fama di corrotto, Khatami di riformista impotente, che è stato presidente senza effetti reali di democratizzazione e modernizzazione del paese. Ma questo nuovo leader, diciamo, delle speranze riformatrici è tremendo. Ha fondato gli Hezbollah in Libano, insomma è stato agli ordini di Khomeini e come membro di una casta rivoluzionaria, non per ragioni personali. È stato primo ministro del regime per molti anni, negli anni 80. E in quei 10 anni ne ha fatte di cotte e di crude, spietate repressioni. È stato lui a iniziare il programma nucleare dell'Iran, quindi quando si dice... Quando si dice... vorremmo forse trattare con Mousavi piuttosto che con Ahmadinejad, bisogna ricordare che fu lui a iniziare, diciamo, a scatenare le ambizioni atomiche dell'Iran. Quelle aveva scatenate l'America. Ecco, Farian, com'è la faccenda? Cioè, questo Mousavi, come è sua moglie, tra l'altro? Non è una Michelle di Iran, perché com'è? È una donna molto conservatrice, anche nell'aspetto, perché veste questo chador molto tradizionale, che nessuna delle sue sostenitrici che indossa, perché le ragazze che vediamo nelle manifestazioni hanno tutte lo spolverino, il foulard leggero tirato indietro. Anche quando parla di diritti delle donne, Zahra Rakhnavard dice in una cornice islamica, ma la cornice islamica non è quello che chiede la campagna per 1 milione di firme, cioè quella campagna volta ad abrogare le misure che discriminano le donne. E quindi, insomma, a me lascia un po' perplessa la differenza. È che la campagna 1 milione di firme chiede di abrogare quelle misure, per esempio, che fanno sì che io come donna erediti la metà rispetto a mio fratello, vado in tribunale, la mia testimonianza vale la metà, se mi succede qualcosa, per esempio un incidente stradale, ottengo un risarcimento dall'assicurazione pari al 50%, e ancora, se voglio chiedere il divorzio posso, ma è un percorso ostacoli, posso chiederlo, ottenerlo soltanto in determinati casi, e se voglio la custodia di mio figlio posso ottenerla soltanto in certe condizioni. Tutto questo è talmente, diciamo, assurdo alle orecchie di noi occidentali, secolarizzati, eccetera, dopo tanti anni di emancipazione dall'oscurantismo, diciamo così, etico-morale, che pure col quale, diciamo, un glorioso medioevo che era tutt'altro che solo oscurantista ha convissuto. Ecco, per noi tutto questo è surreale. Ma qual è la ragione profonda per cui invece questa legislazione di cui lei ha parlato, con questo alto tasso di follia, sopravvive in un paese che poi tutto sommato le televisioni, i contatti, le comunicazioni. Come, ma soprattutto il dato... Ma non è che la radice starà proprio, diciamo, nella religione, nel libro? Ma secondo me sì, il problema è quello, perché la diseguaglianza tra uomo e donna è sancita dal Corano. C'è anche però un movimento in atto, perché il 65% delle matricole universitarie oggi sono donne. Le donne che studiano poi hanno la possibilità di lavorare, e tenete presente che in Iran non ci si laurea in lettere, in filosofia, in scienze politiche, ma la stragrande maggioranza degli studenti, si parla dell'88%, si iscrivono a facoltà scientifica. Ma quella iraniana è una società profondamente tradizionale, anche se in movimento. È in movimento perché, per esempio, oggi i giudici, quando devono decidere a chi dare la custodia dei figli minori, tendono a usare il principio di competenza, e quindi a dare i figli minori al genitore più competente, molto spesso alla mamma. Ovviamente si parla di mamme benestanti che sono in grado di portare avanti una battaglia legale in questo senso. Una società tradizionale perché anche un ayatollah che piace molto ai riformatori, pensiamo a Montazeri, che abbiamo nominato prima, che è un marjai taqlid, quindi una fonte di emulazione, è l'equivalente di un papa, insomma. Ecco, anche questo personaggio che ho incontrato un paio di anni fa nella sua casa, nella città santa di Qum, è un uomo molto tradizionale. Quando io gli ho chiesto: lei cosa pensa ai diritti delle donne? È contento che Shirin Ebadi abbia vinto il Nobel per la pace? Ho detto: sì, non importa che sia uomo o sia donna, Shirin Ebadi è iraniana e per questo sono felice che lei abbia vinto il Nobel. Ma per i diritti delle donne mi ha detto che noi donne non possiamo avere il diritto al divorzio. Perché? Perché siamo troppo lunatiche. E se gli uomini, il marito ci fa arrabbiare, noi non esitiamo a chiedere il divorzio. Dice: invece noi uomini siamo un attimino più tranquilli, più pacati. Sono perché... contento che il pubblico non possa vedere la mia faccia. Momento così, ma anch'io ero molto perplesso, io ero arrabbiatissima. No, di moderata soddisfazione, sai, io sono reazionario. Comunque, vada. E mi ha detto che, insomma, poi gli uomini, se si trovano senza moglie, ne hanno bisogno un'altra per tenere la casa e badare ai figli. Mentre invece, appunto, le donne sono molto più indipendenti, quindi non devono avere tutte una queste società libertà. Tradizionale. Ma tradizionale anche in un altro senso. Pensiamo alla libertà che abbiamo anche qua in Italia, in Europa, di conoscerci. Non dobbiamo pensare che gli iraniani abbiano la stessa facilità nel conoscersi e nel mettersi insieme. È vero che la Teheran alta ha questa facilità, ma nemmeno tutti. Quando sono rientrata in Iran nel 97, per la prima volta dopo tanto tempo dalla rivoluzione, sono andata a fare un giro a Teheran nei quartieri bassi con l'autista di mio zio. E questo ragazzo mi chiese: ma quanti anni hai? Ho detto 30 anni, ma sei sposata? Ho detto no, ma come mai a 30 anni non sei disabile, non hai qualche problema? E mi dice, io dico: ma no, guarda, sto aspettando di finire il dottorato, mio padre non vuole che mi sposi prima. Ovviamente era un pretesto. Dico: ma tu sei sposato? E mi dice: no, ma c'è una ragazza che ti piace. Sì, ce n'è una, ma lei non lo sa, perché non ho soldi abbastanza per sposarmi e non posso andare a chiederle. Ma ci sei andato a bere un caffè, la conosci? No, non le ho mai rivolto parola, perché se io le rivolgessi parola, lei penserebbe che ci provo con tutte. E quindi appena avrò la disponibilità economica manderò mia madre piuttosto che mia zia a parlarle. Ecco, questo è un ragazzo della Teheran bassa, un ragazzo di origini umili. Ma lo stesso discorso ha fatto il mio cugino di primo grado, nato in America. Comunque io non sono relativista, però questa mi sembra più una favola che una cosa. No, è un mondo tradizionale. Anche mio cugino, quando ha trovato la donna dei suoi sogni, ha mandato nostra zia a conoscerla. Questo in un ambiente ricco della Teheran Nord, per cui non è questione religiosa, è una questione molto tradizionale, è un Iran che funziona con standard diversi rispetto a quelli italiani. Comunque il Baradei, il commissario dell'Agenzia di Vienna per le atomiche, ha detto che questo paese, così in preda a queste difficoltà politico-sociali, con questo retroterra tradizionale, questa meccanica rivoluzionaria bollente, insomma, sta fabbricandosi l'atomica. Lo ha detto lui, lo ha detto un egiziano dell'ONU, cioè quanto di meno attendibile dal punto di vista di una sposata un'iraniana, tra l'altro, per cui conosce la mentalità. Appunto. Vabbè. Allora, è vero che l'atomica ce l'ha quel feroce debosciato lì di Kim Jong-il, è vero che ce l'ha il Pakistan, che è uno stato fallito e che a 80 chilometri, è storia di poco fa, dalla sua capitale c'erano i talebani in agguato. È vero che l'atomica è un arnese maneggiato malamente da molti farabutti in giro per il mondo, ma l'idea che se ne doti, e non per scopi civili, non l'energia nucleare per scopi civili, ma che se ne doti per scopi militari l'Iran, è particolarmente preoccupante. È la classica goccia che fa traboccare il vaso, perché appunto l'Iran non è né uno stato fallito né un dispotismo da operetta, è una gigantesca, importante, profonda, radicale rivoluzione con con un fondo sociale, culturale, nazionale, e che riguarda la Umma islamica, sia pure partendo dalla base sciita, insomma, che dire, Caracciolo? Mi pare che il mondo, a cominciare dall'America, ma non Israele, si sta adeguando all'idea che l'Iran sta per diventare una potenza atomica. Attenzione, io non penso che l'Iran stia fabbricando adesso la bomba atomica. Io penso che l'Iran stia raggiungendo adesso la capacità di farla, attraverso lo sviluppo anche dell'energia civile, perché non c'è un rapporto alternativo tra energia atomica civile e energia atomica nucleare. Sono passi che sono sequenziali l'uno rispetto all'altro. Ricordo a noi stessi che il nostro paese negli anni 50, che era un paese all'avanguardia nella tecnologia nucleare civile, cominciò a pensare anche a fare la bomba atomica. Poi gli americani ci dissero che non era il caso. Ecco, nel caso specifico, credo che ormai non sia più reversibile, salvo che con la guerra, questo sviluppo, e mi pare che l'unico paese che è disponibile a fare la guerra all'Iran per impedirgli di dotarsi della bomba atomica sia Israele, perché l'America non mi pare che ne abbia più tanta voglia. La peggiore delle situazioni possibili, Ray Neri. Sì, mi sembra che il grande pericolo della bomba in mano all'Iran, che una volta che ce l'abbia a disposizione nei suoi arsenali, non si può più fermare la sua strategia egemonica sull'intera regione, nel senso che il suo aiuto a Hezbollah in Libano, a nord di Israele, il suo aiuto ad Hamas a sud di Israele, a Gaza, non potranno più essere contrastati, pena per l'appunto l'uso dell'atomica. Non si può più andare ad attaccare la centrale, il motore immobile che spinge avanti i movimenti fondamentalisti, i movimenti anti-Israele, perché è protetto sotto lo scudo nuovo dell'atomica. E questo è il grande rischio Ricordiamo che Israele l'atomica ce l'ha. Sì, certo. Anche però, se non lo dice. Sì, io però ritengo questa un'osservazione completamente fuori misura, nel senso che, Caracciolo, con molto rispetto per la sua opinione, nel senso che Israele è una democrazia occidentale. Ma non è solo questo punto. Ma se il criterio è che l'atomica ce la possono avere le democrazie sono reversibili come sono reversibili i regimi autoritari, se per questo. Ma il criterio è che l'atomica di Israele non è una deterrenza aggressiva. Israele è un paese in difesa, circondato. Sì, sarebbe un deterrente però anche per l'Iran, perché secondo me per leggere il presente dobbiamo capire anche la storia. Nel 1941 l'Iran era neutrale, seconda guerra mondiale è stato invaso dagli alleati. 1953 l'Iran era sulla via di una monarchia costituzionale ed è stato vittima di un colpo di Stato contro Mossadegh. 1980 l'Iran era appena uscito nemmeno dalla rivoluzione del 79 ed è stato invaso da Saddam Hussein, iracheno, armato e finanziato dall'Occidente. 1998 i talebani minacciano i confini orientali dell'Iran. Quindi per l'Iran l'atomica è considerata un buon deterrente. Teniamo presente che i confini dell'Iran sono quelli dal 1500, anzi ha perso continuamente territori. Ma oggi è l'Iran a proclamare dobbiamo attaccare il regime sionista, dobbiamo... Non è stata usata la parola, il discorso sarebbe lungo, in realtà non è questa la posizione, cioè anche le traduzioni che ci sono state delle invettive di Ahmadinejad, poi tra l'altro ci sono anche state delle prese di posizione anche diverse all'interno del regime. Anche lui mente sapendo di smentire. Ma diciamo che provoca per gusto di provocare, quello sicuramente. Prego, Panella. No, appunto in questo discorso di Tariana Shabaia, anche di Caracciolo, sono dentro la linea che va dalla maggiore in Occidente, che ha ispirato il pessimo discorso di Obama, che ha ripassato peraltro di non capire nulla di Islam e di Iran, era meglio se avesse taciuto a Cairo, e cioè che il problema dell'Iran è un problema di dotarsi di bomba atomica per poter gestire la sua potenza regionale. Non è così. La logica di Ahmadinejad, la logica di Khamenei, di Pasdaran, di Basij, la logica di questa bomba atomica è la logica di una deterrenza per esportare la rivoluzione, non la destabilizzazione, la rivoluzione islamica. È un paese in mano, un gruppo dirigente sulla formato, base di quali fatti? Tant'è vero che guardate, il solo annuncio, l'effetto annuncio è stato utile all'Iran per garantire e coprire appunto la conquista di Gaza e del Libano. Loro non puntano ad una deterrenza per potenza regionale dentro una logica, diciamo, europea, di politica di nazione. Loro puntano semplicemente a esportare la rivoluzione. La mission dell'Iran, della Costituzione iraniana, è esportare la rivoluzione islamica nella Umma, e usano la bomba atomica per un processo. Ma Carlo, guarda, sono 30 anni, sono 30 anni che hanno capito che non ce la faranno mai, perché gli sciiti sono considerati eretici. Hanno conquistato addirittura una sponda del Mediterraneo. In Libano sono diventati l'elemento chiave di tutta la situazione. Sono avanzati, hanno avuto dopo la guerra con Iraq un periodo di blocco, ma negli ultimi anni stanno correndo in avanti. Oggi stanno minacciando il Bahrain, stanno minacciando il Golfo, dicono che il Bahrain fa parte dell'Iran. Hanno una politica espansiva di tipo rivoluzionario, non di tipo eserciti. Beh, ti ricordo che Bahrain e Emirati Arabi sono stati creati nel 1971, quando l'Inghilterra si è ritirata. Ho capito, ma non mi importa le ragioni di fondo. Loro vogliono, cioè, qualche secolo fa il Bahrain iraniano lo stanno facendo, e usano l'atomica, la deterrenza atomica, per rafforzare il loro messaggio rivoluzionario. Bene. Che è un messaggio rivoluzionario che funziona. Abbiamo esaurito purtroppo il tempo, e devo semplicemente concludere dicendo che mi auguro che Pannella abbia torto. Non sono sicuro che Pannella abbia torto, ma mi auguro che abbia torto. E tutti credo ce lo dobbiamo augurare, compreso Pannella. Bene, grazie a Farihan Sabahi, a Lucio Caracciolo, a Daniele Raineri, a Carlo Pannella, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Matè, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Mailog 2.0. Un saluto e un bacio anche a Deborah Rosciani, che spero sia in vacanza, non me l'avete licenziata, no? Bravi, baci. Speriamo.